Buon pomeriggio a Fabio Luzzetti e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie, veramente un grande piacere per me perché è una radio che conosco bene, sono una delle radio storiche italiane, possiamo dire, una delle radio locali storiche, quindi è un grande piacere essere in collegamento con voi. Oltretutto immagino tu sia particolarmente a tuo agio con il mezzo radiofonico, conoscendo un attimo il tuo lavoro, per cui ci fa piacere averti qui. Esatto, fa un po' strano stare dall'altra parte, però è molto bello. Allora Fabio, siamo qui per parlare di Indie Jungle. Indie Jungle è un programma di Sky Art che è andato in onda per la prima volta il 17 ottobre dello scorso anno, un anno in cui la musica dal vivo l'abbiamo sentita veramente poco e abbiamo sentito forte mancanza. Indie Jungle è stata un po' la vostra risposta a questa cosa, ti va di raccontarci un po' di cosa si tratta questo progetto? Allora, come hai giustamente detto tu, è un progetto che è andato in onda ad ottobre dello scorso anno, che in realtà abbiamo registrato sempre a luglio dello scorso anno, in un momento, come dicevi, storico in cui la musica dal vivo era ferma, e quindi nel momento in cui siamo ritrovati come tutti gli italiani chiusi a casa, ci siamo un po' interrogati, abbiamo un po' ragionato sull'idea di fare qualcosa per portare all'attenzione la musica, in un momento in cui non avremmo mai immaginato che in realtà la musica poi sarebbe stata ferma così a lungo. Quindi abbiamo detto, abbiamo uno studio, abbiamo i contatti per poter chiamare alcuni artisti, portiamoli in studio, li facciamo suonare dal vivo, li intervistiamo con una sorta di vero e proprio racconto in cui cerchiamo di farli conoscere al pubblico. Ed abbiamo lo scorso anno chiamato 12 gruppi, tra questi c'erano con la Pesce di Martino, rappresentante di lista, c'erano i Coma Cose. Di quei 12 addirittura 6 li abbiamo poi ritrovati nell'anno successivo a Sanremo sul palco 3D, quindi fu una bella sorpresa, soprattutto una grande attenzione nel momento in cui poi è andata in onda questa prima stagione di Indie Jungle ad ottobre, quando si ipotizzava già che la musica sarebbe ripartita, la musica dal vivo. Invece quando siamo partiti con Indie Jungle, purtroppo eravamo tutti ancora appassionati di musica, di persone che vogliono vedere la musica dal vivo, purtroppo obbligati a stare a casa, e poi una sorta di boccata d'ossigeno. Non è la stessa cosa vedere un concerto dal vivo e vederlo in televisione, questo sia chiaro, però era la possibilità di conoscere alcuni artisti, vederli suonare con la formula del mini documentario, ecco, mettiamola così. Questa è un po' come è andata la prima stagione. Una stagione appunto che, come dicevi, che ha avuto comunque grandi nomi. Ti va di dirci, dato che appunto l'asticella a questo punto è abbastanza alta, ti va di raccontarci un po' cosa dobbiamo aspettarci da questa seconda stagione? Allora, guarda, la seconda stagione è nata in un contesto diverso, perché quando abbiamo cominciato a ragionare su quelli che sarebbero stati i nomi che avrebbero poi preso a parte a questa seconda stagione, eravamo sostanzialmente a gennaio di quest'anno, la musica dal vivo era chiaramente ancora ferma. Abbiamo raccolto un bel po' di adesioni di artisti che volevano far parte un po' di questa appunto nuova stagione di Indie Jungle. Nel momento in cui siamo andati poi a chiudere la lista, diciamo, dei nomi, siamo entrati nel dettaglio, sempre con lo spirito di cercare di fare una sorta di fotografia sulla scena musicale attuale indipendente italiana, con l'ottica di diversificare vari artisti tra loro, quindi cercare di mettere insieme il rock, il pop, un po' di magari di rap, l'elettronica, la contaminazione, quindi cercando di avere un ventaglio più ampio possibile. Abbiamo cominciato a chiudere i nomi e poi abbiamo avuto a disposizione sostanzialmente per quasi tutto il mese di luglio lo studio, e lì abbiamo dovuto incrociare, perché fortunatamente quest'estate, come sappiamo, molti artisti, soprattutto quelli della fascia più indipendente, hanno avuto la possibilità di poter andare in giro e suonare tanto, tantissimo. È iniziato un gioco di incassi per cercare di costruire questa seconda stagione, che alla fine però fortunatamente è uscita molto bene. L'idea era quella di cercare di mettere insieme artisti anche molto diversi tra loro. Ti faccio un esempio, abbiamo da Ministri, che apriranno questa seconda stagione sabato 20 novembre di Indie Jungle con il loro concerto, un concerto dove ci hanno anticipato alcuni brani, hanno soprattutto raccontato una lunga storia, perché ecco, tra i nomi di questa seconda stagione i Ministri rappresentano la componente rock, la percentuale rock, però di un gruppo che comunque è sulla breccia già da un po' di anni, quasi un decennio, e ci faceva piacere averli, perché secondo me dal vivo, perché Indie Jungle, ricordiamo, è un programma dove i gruppi che vengono devono saper suonare dal vivo, perché non c'è finzione, nonostante siamo in televisione, tutto in presa diretta, tutto live, e quindi bisogna far sì che i gruppi che vengano siano, insomma, gruppi in grado di suonare dal vivo. Quindi apriamo con i Ministri, poi c'è Motta, Francesco Motta, che ha fatto un live, poi lo vedrete, in puntata davvero incredibile, full band con la sua band. Ci sono i Pastelemo Slow Kids, e questo parlo della componente più rock. C'è Francesco Bianconi e Vasco Brondi, per una componente più, passami il termine, poetica tra virgolette, in cui magari c'è un'attenzione particolare alla parte sessuale. C'è Mischeta, che devo dire è stata una grande sorpresa vederla suonare dal vivo. Ci sono Night, nessun artista in particolare, che è veramente, poi quando vedrete la puntata capirete, insomma, la sorpresa che abbiamo avuto tutti nel vederlo da solo tenere uno studio. E l'altro sono i Melancolia, che secondo me sono uno di quei gruppi che possono, diciamo, costruirsi un percorso uscendo fuori poi da un talent come X Factor. E poi ancora c'è Margherita Vicario, c'è Joan Till, un artista della scuderia Andamento, quella per intenderci di Fraquintale, perché ci piaceva anche accendere i riflettori su artisti meno noti al grande pubblico. Quindi Jungle è un vero e proprio racconto in cui loro dicono chi sono, come si sono avvicinati alla musica, in che modo si sono appassionati, quali sono le loro passioni. Si raccontano anche, ecco, quella è la cosa che ci piaceva dal punto di vista umano, con la loro fragilità, con quei percorsi ad ostacoli che ogni artista che parte dal basso incontra. Un percorso, ripeto, artistico e umano, che nelle puntate noi speriamo che poi venga percepito, e così, almeno per quello che riguarda la prima stagione, sembra sia accaduto. Una sorta di mini documentario monografico per ogni artista. Quindi, ripetiamolo, è una seconda stagione che va in onda dal 20 novembre su Sky Art, e The Jungle, che è un programma che immagino possa rivoluzionare anche il panorama del palinsesto televisivo per quanto riguarda la musica dal vivo. Ti ringrazio, Fabio, per averci parlato di questo programma. Grazie. Grazie. Guarda, se è possibile aggiungo solo una cosa, veramente in breve, perché è, come dicevi, e su questo sono d'accordo, un programma che cerca di riportare in TV un'attenzione sulla musica dal vivo. Sappiamo, la TV, quella giornalista, anche in chiaro, musica dal vivo purtroppo non esiste, ce n'è pochissima, sono pochi gli spazi. Quindi l'idea è quella di riportare la musica dal vivo in televisione, in un canale a pagamento che è Sky Arte, per abbonati, quindi una pay per view. Però Sky Arte ci ha dato la possibilità, così come lo scorso anno, metteranno in streaming gratuito ogni volta che vanno in onda per una settimana tutte le puntate. Quindi chi non è abbonato a Sky non può vedere i concerti di Jungle. Il sabato vanno in onda, e la domenica, già dalla domenica, per tutta la settimana successiva, sul portale di Sky è possibile vedere diciamo, gratuitamente la puntata. Perfetto, grazie mille per tutte queste informazioni, grazie per essere stato con noi, Fabio, e grazie mille davvero. Grazie a voi, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Fuggito. Grazie.